Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti dal Gastronauta. Bene, oggi parleremo di un argomento molto ma molto particolare. L'abbiamo titolato AAA cercasi panettieri e io aggiungo un interrogativo perché poi, come vedremo così anche da telefonate, da interventi, sicuramente rimane un rebus che vorremmo andare anche a chiarire, perché dopo un SOS lanciato da Vinceslao Ruccolo, presidente dell'Associazione Panificatori Abruzzesi, che abbiamo in linea con noi, su questo SOS si è un po' scatenata così, come posso dire, una querela davvero molto forte. Anche il sito www.gastronauta, il mio, e anche Facebook sono stati pieni di così di iscritti, di gente in cerca di lavoro che diceva che assolutamente 3.000 euro al mese che venivano offerti erano una chimera e anche i posti erano veramente pochi. Allora noi oggi vogliamo chiarire questo problema, vogliamo andare a vedere anche, perché poi parleremo anche della qualità del pane in mancanza di panettieri, quindi in mancanza di offerta. Allora, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Quindi prego, sia che chi cerca lavoro appunto da panettiere, chi offre lavoro da panettiere, può intervenire, gli daremo diritto di precedenza. Allora, cominciamo da appunto Vinceslao Ruccolo. Buongiorno Ruccolo. Buongiorno. Allora, ci racconta come sono andate veramente le cose, come stanno veramente le cose? Allora, le cose stanno così, che io mi sono ritrovato quest'estate, nel mese di agosto, che avevo bisogno di una persona qualificata, perché visto il lavoro, grazie al turismo che c'è sul nostro litorale, mi sono trovato imbandanato e allora è uscito questo comunicato qui. Un po' tardi, perché il comunicato era del 31 di agosto e che si parlava che si poteva arrivare anche a 3.000 euro. 3.000 euro si intende di persone qualificate, comprensive di festività, straordinari notturni e tant'altro, perché alla fine non potevo certamente con un'esigenza del genere nel periodo estivo mettere una persona qualsiasi a lavorare vicino a me, che sarebbe stato più di impiccio che non di sostegno. Ecco, ma Rucco, mi spieghi questo, quindi era un problema suo, non un problema dei panificatori dell'Abruzzo? Ma nei dati di riferimento della Camera di Commercio, in base all'indagine fatta sia sul 2010, mi sembra che pure sul 2011, mancano circa un 110 unità. Se poi queste 110 unità non vengono o richieste oppure verranno richieste in seguito, dipende pure dal momento e dell'andazzo economico che abbiamo a livello nazionale. Ecco, mi scusi una seconda obiezione. C'è un ragazzo, un precario, che poi è uscito anche questo allo scoperto, ha detto di aver appunto chiesto informazioni su questo offerto di lavoro e gli è stato risposto che non era un lavoro ma era un corso di formazione. No, non esiste proprio. Noi abbiamo sempre risposto che questi erano offerti lavori, che ci siamo organizzati anche per poterli girare alle aziende sempre con la privacy dovuta. E per quanto riguarda il corso di formazione, abbiamo chiesto a ragazzi che se lo vogliono intraprendere il corso di formazione, ma non abbiamo per niente obbligato una cosa del genere, perché non è da noi e non è nel nostro indolo di fare un lavoro del genere, perché è assolutamente impensabile fare una cosa del genere. Grazie Vinceslao Ruccolo. Allora sentiamo Marco, un noto panettiere di Mantova. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti. Mi dica, allora. Ma io la situazione in Abruzzo non lo so, è che io devo ringraziare sinceramente tutti gli extracomunitari, perché ormai il mio laboratorio sembra più un ufficio immigrazione che un laboratorio. Ecco, devo dire però che ultimamente effettivamente le richieste di lavoro da parte di giovani italiani comincia a esserci, qualche anno fa veramente. Quindi qualche anno fa nessuno lo voleva fare il panettiere, così? Nessuno lo voleva fare, un po' per gli orari, un po' per il sacrificio, ma anche perché insomma adesso attrezzati come siamo non è più un mestiere di fatica che c'era una volta. Ecco. Senta, qual è lo stipendio medio dei suoi dipendenti? dipende poi dalle varie categorie, sì, dalle varie professionalità, ecco, so, comunque va insomma sopra i 1200, 1300, 1500, insomma va, dipende poi insomma dalla professionalità delle persone, ecco. Bene, grazie a Marco, che Marco tra l'altro diciamo che è anche in corso un'operazione diciamo benefica ad Haiti, se non erro, quindi grazie anche per tutto quello che fa lei sicuramente per questo paese. Sentiamo allora, andiamo dal presidente dell'Unione Panificatori Confcommercio Giancarlo Giambarresi per chiedere qual è la situazione nazionale, Giambarresi. Guardi, il problema dei panificatori in genere che mancano è stato sempre un po' ricorrente, è stata una costante negativa nel corso degli anni. Se uno sfogliasse i giornali vedrebbe che purtroppo i fornai sono sempre un po' mancati, perché come diceva giustamente il presidente, i fornai, lo spirito di sacrificio, il lavoro notturno, il fatto che si lavora di notte, si dorme di giorno, togliendo parecchio alla vita relazionale, ha fatto sì che questo lavoro non avesse quella pil, quell'attrattiva tale da poter essere considerato un lavoro interessante. E adesso attualmente c'è una crisi economica molto forte, lo sappiamo tutti, lo ripetiamo, quindi magari c'è bisogno di meno fornai, però se uno si facesse, non so... Ecco, scusi, lei ha fatto un inciso importante, è calato il consumo del pane? Guardi, è calato in questo senso, cioè mentre prima, fino a 20 anni fa, si facevano 3-4 tipi di pane, adesso se lei entra in un panificio della capitale, io parlo per Roma come provincia, e vedrà che ce ne sono circa una trentina diversi. Allora cosa succede? Che è cambiato l'offerta e che... Prego. È cambiata l'offerta e ci sono vari tipi di pane, quindi la gente magari si è, ha cambiato anche gusto e si è dirottata verso altri tipi di pane. Ma non è che è calato il consumo di pane in modo verticale, c'è una variazione dell'offerta. Consideri adesso che le famiglie non sono più famiglie numerose con 5 figli, più di uno, due figli non ci sono, e quindi si ne compra un po' meno, ma comunque il pane rimane sempre il re della tavola, insomma. Bene, rimanga con noi, sentiamo Claudio De Lucca. Buongiorno Claudio, un panettiere. Sì, buongiorno. Niente, io volevo parlare della discussione intrapresa all'inizio della trasmissione, il discorso dei fornai che possono raggiungere anche 3.000 euro. Io penso che... Claudio, purtroppo la dobbiamo richiamare perché si sente malissimo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di AAA, cercasi panettieri, interrogativo, ma parleremo ovviamente anche di consumi di pane, come abbiamo già accennato, e parleremo anche di qualità del pane. Volevo chiedere, visto che abbiamo ancora in linea Giancarlo Giambarresi, perché anche da Roma sembrava fosse uscita così una notizia di cui c'era bisogno di 300 panettieri. È vero questo? Guardi, dicevo poco fa, se uno facesse una benefica, una simpatica ispezione nei nostri panifici, lei vedrà che l'età media è molto alta, è intorno ai 60 anni, quindi c'è un problema di ricambio generazionale. Quando questi signori eccellenti che sono arrivati all'apice della loro carriera lavorativa andranno in pensione, noi dovremo in qualche modo sostituirli. Allora necessita, perché poi vede, ormai anche nei panifici è un po' cambiata la situazione, non c'è più solo il fornaio, ma c'è il pasticcere, c'è anche il pizzaiolo, ci sono i prodotti da forno, quindi ci sono una serie di ruoli che il mercato richiede che bisogna ricoprire. E se non c'è una ricambio, scuola, certo, che un ricambio ed una scuola che possa dare la possibilità a questi ragazzi di imparare il mestiere, sinceramente avremo poi delle grosse difficoltà, ecco. Bene, grazie a Giambarresi. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Ritorniamo dal nostro radioascoltatore Claudio De Lucca. Buongiorno Claudio. Buongiorno, salve di nuovo. Ecco, no, io volevo riprendere il discorso dei famosi 3.000 euro. Io penso che innanzitutto c'è bisogno di fornai, perché a Lucca, ma c'è bisogno di professionisti, non c'è più bisogno di avventurieri che fanno questo lavoro esclusivamente perché, che voglia o no, uno è obbligato anche tante volte a pagarli di più di quello del dovuto per il lavoro notturno, il lavoro di sacrificio che non viene mai sinceramente riconosciuto, non solo viene riconosciuto solo a livello economico, ma insomma fornai è un lavoro durante alla fine. Cioè, già qui c'è bisogno, il discorso dei 3.000 euro era un discorso giusto, vediamo anche le solite pubblicità, è stato fatto anche giusto, ti promettono una cosa, poi quando arrivi a comprare una macchina, per dire, ti vedi che quell'offerta ha un prezzo, se la vuoi come la vuoi, chiaramente il prezzo aumenta, di conseguenza il prezzo di uno che comincia sarà quello, poi nell'andare del tempo, se io penso che un dipendente, un fornaio, sostituisce il titolare a pieno carico della serie, il titolare si può magari, visto tutte le cariche burocratiche che ci sono ora, che è diventata una cosa assurda, cioè si può gestire su quello e lasciare un attimino a produzione con una persona di fiducia, io penso che non ci sia persona che non arriva a guadagnare quello stipendio all'interno di un panificio. Bene, grazie, grazie Claudio, pensiero. Grazie Claudio, ripeto, numero verde 800 24 00 24, diciamo che sono tantissimi gli sms che sono arrivati, alcuni non li leggo perché sono abbastanza sconcertanti, insomma con la solita storia, mandateli a lavorare, insomma tutta una serie di cose che vorrei lasciare, però ci sono molte domande su perché il pane dura meno ora, altri che scrivono che i panettieri in Francia aprono le 6 del mattino e chiudono la sera tardi, e poi anche un altro che dice in montagna il pane dura di più, perché? Bene, magari vedremo anche di risolvere questi problemi qualitativi, di rispondere, ma ora continuiamo su questo discorso per capire qual era la realtà e andiamo dal presidente nazionale dell'Asso Panificatori della Confesercenti, Mario Partigiani, per capire veramente qual è la situazione nazionale, veramente come ci diceva il panettiere Mario da Mantova, il suo forno ormai è pieno di altri lavoratori di altri paesi, quindi non ci sono più italiani, è così Mario Partigiani? Esiste, ma innanzitutto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, esiste anche questo fenomeno, che è un fenomeno normale perché li abbiamo in casa, di conseguenza perché non farli lavorare visto che i nostri non si presentano, insomma. Ecco, e questo è il punto, i nostri non si presentano? Interrogativo? Sì, ce ne sono pochi che hanno voglia di sacrificarsi per fare questo lavoro qui, per il lavoro notturno, non per la fatica, perché fatica non se ne fa più ormai con la tecnologia che è avanzata, cioè, però forse per il lavoro notturno il giovane preferisce andare a altre parti, insomma. Per quanto riguarda, ho sentito prima, per quanto riguarda i 3.000 euro, se vogliamo lo possiamo prendere per una battuta, come si parla poi di 3.000 euro lordi, che alla fine viene a essere uno stipendio medio. Ecco, cioè, vede, ho un sms in questo momento, ho fatto un giro per i fornai della mia città, però non mi dice la mia città, questo radioascoltatore vorrei saperlo, 3.000 euro li prende il titolare forse, offrono al massimo 900 euro. È lo stipendio medio che si può avere, per avere i 3.000 euro, come diceva lui giustamente, deve essere un super specializzato, ecco, che conosca dalle materie prime alla lavorazione e prenda anche in certi momenti le veci del datore di lavoro, e di modo che deve fare quella parte lì, insomma. E poi anche quei soldi lì li potresti prendere se fai un contratto con una campagna estiva al mare o in montagna, che si fanno, lavorano i 2-3 mesi e lì si fa un contratto, però lì non si guardano le ore, certo. Non si guarda niente, insomma, no? Bene, rimanga con noi Partigiani, sentiamo Francesca da Ravenna, una radioascoltatrice. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Mi chiamo appunto Francesca. Voglio dire una cosa, ma perché devono lavorare di notte i panettieri per poi sfornare un pane caldissimo che oltretutto fa male? Oltretutto sti bambini attualmente vanno tutti a mettersi l'apparecchio perché i denti sono storti, che non mangiano più quel famoso pane duro che mangiavamo noi. Faccio una premessa perché io non compro pane da nessuna parte, il pane lo faccio in tutti i modi, me lo faccio dalla crusca, alla semola, al mais, me lo faccio in tutti i versi e mi costa pochissimo per tutta l'acqua che assorbe un litro di farina, e i suoi ospiti lo sanno. Ma allora, se il pane fa male mangiarlo caldo, e dopo si lamentano perché costa molto. Allora, lavorano come tutti, nelle ore normali, uno si prende il suo sacchetto di pane e lo mangeranno, fa bene allo stomaco e fa bene anche alla tasca. Beh. Non è che poi la gente si sta sempre a lagnare che il pane costa 4 euro, 6 euro, 7 euro e poi ci vendono il pane di Altamura che non c'è il timbro come tu ci hai insegnato, che ci deve essere il marchio per essere IGP, eccetera. E non è che ci vendono poi delle cose che non sono vere. Allora, ognuno si rassegni che se vogliono la roba fresca la devono pagare. È tutto un costo nella Bene. Vita. Francesca, ecco, grazie. Grazie, vi saluto, complimenti. Grazie Francesca, facciamo rispondere a un bravissimo panettiere di Carate Brianza, Davide Longoni, il discorso di lavorare la notte e del pane caldo. Buongiorno Davide. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Hai ascoltato un po'? Sì, ho ascoltato. Questa... Prego. Allora, il problema del lavoro notturno senz'altro è uno degli aspetti che un po' rendono meno invitante, soprattutto i più giovani, questo tipo di lavoro. Purtroppo si rincorre l'abitudine dei consumatori che chiedono il pane fresco tutti i giorni, e questo qua ha messo in moto un meccanismo tale che la mattina il cliente vuole un assortimento il quanto di possibile vario di tipologie di pane. Si può, una strada alternativa esiste, quello del pane di grosso formato e fatto con pasta madre, ed è una via che io percorro ormai da qualche anno e finalmente sto avendo dei risultati, a mio avviso, importanti, che mi hanno portato ad assumere sempre più ragazzi. Adesso siamo in 5 in laboratorio e devo dire che io a 38 anni sono il più vecchio del laboratorio, siamo tutti italiani. I più giovani hanno 19 anni, e io sono più anziano, questa cosa mi fa molto piacere, a 38 anni, ad essere un vecchio giovane panificatore. Bene, rimani con noi. Io devo dire che Longoni continua sempre a sperimentare nuove farine, lievito madre, le lunghe lievitazioni, quindi non tutti purtroppo possono fare così. Ci sono molti invece che ormai sono semplicemente venditori di pane, il pane che arriva magari da altre centrali, ecco perché ci sono anche tanti problemi. Sentiamo Luciano da Parma, un radioascoltatore. Buongiorno Luciano. Buongiorno Paolini. Prego. Mentre sentivo la sua trasmissione, così non l'ho sentita tutta, comunque sento che c'è questa richiesta, o perlomeno si parla di una mancanza di panettieri, panificatori, via dicendo. Mi è tornata alla mente, me lo sono sempre chiesto come interrogativo, quando vado dentro le panetterie vedo delle rimanenze di pane incredibile, tutti i giorni ne rimangono delle quantità esagerate. Come si fa allora a conciliare, come si concilia questa situazione, che da una parte si dice ci sono pochi panificatori, dall'altra quelli che ci sono fanno delle rimanenze incredibili, e poi perché queste rimanenze perché poi queste rimanenze gravano sul costo del pane che noi andiamo a comprare? Mi sembra che ci sia qualcosa che non torni, un conto che torna male. Ecco, se qualcuno dei suoi ospiti me lo può spiegare, mi fa una cortesia. Sicuramente prima della fine le daremo una risposta, perché abbiamo molti radioascoltatori, voglio esaudire un po' tutte le domande. Paola da Roma, buongiorno Paola. Buongiorno, complimenti al nostro premio Oscar, che sarebbe lei. Vabbè, grazie. Senta, vabbè. Io sono milanese e a Milano trovavo sempre il pane con l'uva, delizioso e buonissimo. A Roma non si riesce a trovare. Bene, facciamo un appello a qualche panettiere appunto a Milano che faccia il pane con l'uva, oppure se c'è qualcuno che lo fa, risponda. Sentiamo Sirio da Milano. Buongiorno Sirio. Sirio, buongiorno. Bene, Sirio è sparito, lo facciamo richiamare, non risponde, torno a Davide Longoni. E Davide, puoi rispondere a questo surplus di pane che avanza in molte panetterie? La motivazione, se è vero poi, perché bisogna vedere se anche questa osservazione è per alcuni panettieri, non per tutti. Ma la cosa è sicuramente degli aspetti veri, veritieri, nel senso che il cliente che alla sera arriva in un panificio alle 6, alle 7 vuole ancora provare un assortimento e quindi più delle volte l'esigenza commerciale è quella di far provare comunque un assortimento accattivante anche a chi compra pizza pane alla sera, e più delle volte questo pane viene poi buttato, comunque si va a fare una fine alternativa al pane grattugiato, le torte. Chi sceglie invece di fare un discorso di pane a pasta madre, il pane alla sera trova ancora commercio poi il giorno dopo, perché un pane di grosso formato a pasta madre anche dopo 12 ore è ancora vendibilissimo e ancora degli aspetti molto positivi che il consumatore apprezza. è un po' il pane che c'era 20 o 30 anni fa, quando si comprava il pane, quando il pane finiva in casa, non tutti i giorni, mancava l'abitudine di comprare il pane quotidiano, ma si acquistava il pane quando finiva in casa, poteva finire la sera, si comprava il pane la sera, oppure la mattina si comprava il pane la mattina. E questa cosa sta ritornando, è successo della mia attività un po', nel mio piccolo comunque, perché io sono un piccolo artigiano, è significativo. Bene, il pane di una volta, come ha scritto un grande scrittore del monastero di Bose, il priore Luigi Bianchi, devo dire che è sempre più difficile da trovare. Io dico che a Milano non sono molti i panettieri o diciamo i negozi di pane, perché ormai sono quasi tutti i negozi di pane, di panettieri ce ne sono sempre meno, ma ci sono, e devo dire che se il pane di una volta si trova a lunga lievitazione che dura abbastanza, ce ne sono veramente pochi. Non so nelle altre città, ma mi risulta così anche nelle altre città. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata a tutti. Stiamo parlando di AAA, cercasi panettieri, interrogativo con tutte le conseguenze sulla qualità del pane, sul costo del pane, su tantissimi altri argomenti. Siamo abbastanza ricchi di SMS, ne voglio leggere uno. Mio figlio faceva il panettiere a 50 euro al giorno in nero, oggi fa ragioniere a 1200 euro assicurato. Vabbè, magari sarà stato un lavoro quando ancora studiava, chissà. Un altro ancora che continua a non capire il lavoro notturno, il pane si può fare tutto il giorno e averlo sempre fresco. Ebbene, poi ancora dice: non si compra più pane perché diventa duro subito, è cattivo, ma prima era profumato di bontà. Un altro radioascoltatore, insomma tantissimi argomenti, però sentiamo, abbiamo ripescato il nostro radioascoltatore Sirio da Milano. Buongiorno Sirio. Sì, buongiorno Paolini, a lei e a tutti i suoi intervenuti. Dunque io volevo dire la mia personale opinione. Dunque si parla sempre dei giovani che non vogliono fare il lavoro perché bisogna ricorrere sempre a immigrazione per fare certi lavori. Io vorrei sfatare la cosa, io ho 48 anni, per mie vicissitudini personali, io ho un lavoro tranquillamente, però per mie vicissitudini personali ho dovuto un attimino incrementare le mie entrate perché... si sa, quando uno si separa, quando uno divorzia, diventa veramente un calvario. Ho mandato curriculum a destra e a sinistra, disposto a lavorare di notte quando volevano, anche perché il mio lavoro mi dà molta possibilità di tempi elastici. Uno che mi avesse risposto, uno solo. Bene, grazie Sirio, era queste le testimonianze che volevamo. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, e io ora voglio raccontare passiamo da Giacinto Mingione, che è presidente della CNA Alimentare di Matera ed è un noto panettiere. Volevo chiedere se in una città del pane così importante come Matera, poi sentiremo anche Altamura, c'è questa carenza di panettiere, perché è un lavoro molto particolare a Matera, ci sono i forni a legna, sicuramente bisogna lavorare di notte. Giacinto, qual è la situazione? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. La situazione è più o meno rispecchia quello che è il quadro nazionale, però dal mio punto di vista la professione del panettiere non è valorizzata come si dovrebbe, considerando che una delle professioni più importanti al mondo, insomma. Oggi la generazione che ignora del tutto questa nobile professione è quella che va dagli anni 80 in poi. Infatti noi abbiamo problemi ad avvicinare proprio questo tipo di generazione. Come si diceva prima, all'interno degli opifici troviamo l'età media è di circa va dai 45 anni in su. Il problema è abbastanza serio, insomma. Io penso che bisognerebbe parlarne di più e avvicinare i giovani a quello che è questa nobile professione, insomma. Quindi parlarne sempre, cercare di eliminare completamente il lavoro notturno, dare più turni di riposo, incentivare le paghe, perché i contratti nazionali, la maggior parte dei panificatori seguono quelli che sono i contratti nazionali, ma non, non sono adeguati a quello che ecco, è il lavoro è usurante, non rientra in questa categoria. Giacinto, ma tu hai detto abolire il lavoro notturno, si può abolire il lavoro notturno? Noi stiamo lavorando per fare questo, insomma. Infatti pensiamo dall'inizio del prossimo anno di cominciare dalle 4 di mattina. E stiamo lavorando su questo, nonostante il nostro pane ha dei tempi di lavorazione più lunghi, però ci permette, siccome è un pane che comunque si conserva per parecchi giorni, quindi ci permette, esprime il massimo dopo 24 ore, quindi ci permette di fare questo tipo di bene, di io credo che sia anche un fatto di educazione anche del consumatore, cioè capire che sempre il pane fresco, cioè prendere anche esatto. Un pane di una giornata, anzi secondo me il pane buono migliora, non peggiora, quindi credo che possa esatto. Essere sicuramente una via. Ma io voglio rispondere in maniera forse anche poco educata a un radioascoltatore che manda un sms secondo me fuori dal mondo. Io mi chiedo cosa ha ascoltato questo signore. Dice: tutti bravi a promettere in radio 3.000 euro al mese, questo Ale da Senigallia. Ma chi l'ha detto? È stato smentito da tutti, 3.000 euro al mese. Lei forse era sintronizzato su un'altra radio probabilmente, perché qui veramente è stato completamente smentito. Bene, andiamo a un'iniziativa veramente interessante che è avvenuta un paio di anni fa. Andiamo dal sindaco di Montesegale in provincia di Pavia. Ebbene, cosa è successo? È successo che anni fa questo piccolo borgo aveva fatto il sindaco un appello in questo piccolo borgo per far arrivare un fornaio nel suo paese dove non ce n'erano più, l'ultimo se n'era andato. Ferrari, com'è finita? Sì, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. È finita bene perché comunque noi siamo riusciti ad aprire il nostro piccolo forno dopo appunto che l'ultimo forno gestito da una signora che ha avuto un'attività che è durata per circa 70 anni, quindi ci hanno lavorato due generazioni di panettieri. Comunque noi siamo riusciti ad aprirlo e oltretutto proprio adesso in questo periodo il forno è stato rilevato da due persone giovani, lui ha 40 anni, lei 30, che lo portano avanti in modo egregio e anzi con loro stiamo facendo un progetto di recupero di alcune tipologie di pane proprio tipico della nostra tradizione locale. Uno si chiama il pansegale, poi noi abbiamo la trassa detta in dialetto, che è una treccia di pane lavorato a lunga, lavorato in modo ancora artigianale, a cui proprio cercheremo di dare un conferimento come piccolo comune della denominazione di origine comunale e proprio per cercare di valorizzare questa tipicità del posto. Infatti noi con loro abbiamo anche fatto adesso proprio in questo periodo un discorso di aiuto da parte, secondo le possibilità che ha un piccolo comune di 330 abitanti che dista un'ora da Milano e che è situato nella comunità montana dell'Orto Po Pavese. Quindi abbiamo cercato di garantire con un accordo del proprietario dell'immobile un affitto a un prezzo agevolato, quindi un avviamento di 7-8 mesi sostanzialmente gratuito e un affitto a circa la metà, a un terzo di quello del valore reale di mercato. Abbiamo esentato proprio con provvedimento del comune dalle tasse comunali, penso non so alla tassa rifiuti e quant'altro. Stiamo lavorando con la creazione con del distretto del commercio di 7-8 piccoli comuni come il nostro tramite un finanziamento di Regione Lombardia per dare a loro circa un 45% di spese dell'arredo, del negozio eccetera, quindi potrebbe abbiamo essere, fatto la nostra certo. Piccola parte potrebbe essere un modello per quei paesi che appunto non hanno più l'ultimo panettiere. Grazie a Carlo Ferrari, sindaco di Montesegale. Io volevo chiamare questo Mirko dalla provincia di Chieti, un radioascoltatore. Prego Mirko. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo intervenire in merito a così alla retribuzione che insomma che diciamo che spetta insomma chi vuole lavorare in questo ambito. Volevo dire che insomma la retribuzione uno noi giovani, ad esempio io ho 27 anni, non è che voglio dire ci sono tanti spiragli per su cui buttarsi anziché sul fare il panettiere magari di notte a 900 euro al mese, insomma mi sembra un po' poco. Vabbè. Ecco tutto, magari anziché buttarsi sulla manodopera estera, comunque sempre da valorizzare, sempre rispettabile, perché sono persone molto volenterose, insomma. Bene, vuol dire, cioè, qui abbiamo un chiaro informazione appunto da un giovane di 27 anni che dice che non gli interessa questo tipo di lavoro a questa cifra. Benissimo, sentiamo anche Maurizio da Modena, non so se è giovane, se anche lui ha da dire qualcosa in proposito. Buongiorno Maurizio. Ah, buongiorno Paolini, senta, no, non sono giovane, ho 60 anni e sono in pensione. È un ex giovane, insomma, però. Ecco, vabbè, 60 anni. Comunque sia, non è il discorso del pane, lavoro notturno. Allora, io le posso dire solo una cosa, che qui a Modena il pane si mangia fresco, appena fatto, oppure già la sera è immangiabile. Per cui mangiarlo, come ho sentito dire prima, il pane del giorno dopo è più buono, ma posso capire il pane di una volta, il famoso pane casareccio. Io, guardi, sono di Roma, le dico Genzano, Lariano, questi pani qui fatti ancora con i forni a legna. Ma questo pane, ma quello si può mantenere più giorni. Questo qui di Modena, assolutamente, guardi. Adesso non me ne voglio i modenesi. Beh, stia attento che se la conoscono quando va dal panettiere non la avvelenino. Grazie. Grazie Maurizio da Modena. Volevo leggere a proposito un SMS. Io contesterò un aggettivo, però insomma, il problema è che in Italia il pane standard fa schifo. Basta andare in Austria, Germania, Francia, Slovenia per trovarlo molto più buono. Sergio da Trieste, io non sono d'accordo su quello schifo, sicuramente è un pane che sicuramente mediamente il pane italiano non è straordinario. Ora, che posso garantire anche che ci sono grandi pani di qualità andando in giro. Non sono tanti, ma ci sono, e come. Il gastronauta. Grazie a Giacinto Mingione, grande panettiere di Matera, ti ringrazio, a presto. Bene, continuiamo, abbiamo tantissime telefonate, speriamo di riuscire ad esaudirle tutte, se non posso, bene, mi scuseranno i nostri radioascoltatori. Io volevo tornare un po' a questa battuta piuttosto violenta di questo radioascoltatore di Trieste sulla, diciamo, la qualità del pane in Italia. Lo voglio chiedere a un altro grandissimo panettiere di Altamura, Nunzio Ninivaggi. Ciao Nunzio, buongiorno. Ciao dottor Paolini, tutto bene? Bene, senti, innanzitutto ad Altamura si trovano ancora i panettieri? Panettieri sì, però diciamo che non vogliono lavorare più la notte, cercano sempre di lavorare nella fascia oraria della mattina, diciamo. E la notte chi lavora? E i padroni come me. Bene, mi sembra una bella soluzione. Ma secondo te si può abolire il periodo notturno di produzione? Penso che sarà una cosa impossibile, perché per esempio la mia clientela, un buon 50% la mattina alle 7 viene già a prendere il pane, che poi se ne va in ufficio, va a lavorare, diciamo. Ho capito, quindi tu dici... c'è un'altra fascia che vengono verso mezzogiorno, diciamo. Quindi è impossibile, per il forno Ninivaggi è impossibile. Almeno per me sì. Bene, allora dovrei continuare a lavorare per tanti anni alla notte, vero? Diciamo che noi non è che iniziamo proprio presto, noi iniziamo verso le 2:30, alle 3 la mattina, diciamo, è ancora un buon orario. Bene. Inizia alle 8, diciamo, di sera, alle 20. A Matera si inizia alle 4, quindi si potrebbe iniziare alle 4, quindi siamo abbastanza vicini. Rimani con noi, Nunzio, sentiamo Giulio da Roma. Buongiorno Giulio. Giulio, buongiorno. Bene, Giulio non risponde, sentiamo Giovanni da Ferrara. Buongiorno Giovanni. Prego Giovanni. Buongiorno, senta, io volevo fare un parallelo fra due esperienze. Io vivo in provincia di Ferrara, ma sono di origine di Napoli, quindi compro il pane sia in provincia di Ferrara e anche a Napoli. Allora, a Ferrara chiaramente lei lo sa meglio di me, il pane è ottimo, però ha un costo, insomma, abbastanza alto, il pane difficilmente si trova a meno di 4 euro al chilo, ed è un pane che, come ha detto quel signore di Modena, è difficile mantenere più di una giornata nella condizione con cui lo compri. La differenza a Napoli invece il pane si trova anche a meno di 2 euro il chilo, il pane lo fanno due volte al giorno, è anche abbastanza buono. La cosa strana è proprio questa differenza di prezzo, che è un po' particolare, e lì bisognerebbe capire il motivo, perché 2 euro A Napoli hai un vantaggio, poi prima di pranzo puoi andare al fornaio, ti prendi un filoncino e lo mangi. Alla sera, quando prima di cena, i negozi sono aperti in provincia, non, magari non in città, in provincia sono aperti fino alle 8. Vai alle 7:30 al fornaio e trovi il pane che è stato fatto nel pomeriggio e anche la domenica mattina. Bene, grazie della sua testimonianza. Ora andiamo a Bologna, andiamo al panificio Atti da Paolo Bonaga. Buongiorno Bonaga. Buongiorno Paolini, grazie. Volevo chiedere a lei un giudizio, mi arrivano, guardi, stanno arrivando in continuazione degli sms sul, diciamo, il pessimo pane che si mangia in Italia. Lei è d'accordo? Ma in Italia si trova di tutto, si trova pane buono e si trova pane meno buono, bisogna un po' girare, un po' cercarlo. Senta, ma secondo lei il pane poco buono dipende dall'uso di cattive farine, dipende dall'uso di mancate lievitazioni, da che cosa dipende? Dipende da una ricerca di contenere i costi, quindi soprattutto riducendo i tempi, perché il nostro costo principale è il tempo. Quindi è la manodopera quanto incide? La manodopera incide tantissimo, incide più del 50% nel prezzo del pane. Ecco, allora ho fatto diverse domande ad altri suoi colleghi. Sì. Quanto guadagna mediamente un lavorante di panettiere? Guarda, io adesso le posso dire, nel mio panificio, la mia squadra, siamo in quattro a produrre il pane, e i due più bravi, diciamo più esperti, arrivano sui 1.800 euro netti mensili, e il terzo, che è un po' meno esperto, arriva sui 1.500 euro netti mensili. Ho capito. Facendo circa una cinquantina di ore settimanali, e noi facciamo solo 2 ore di lavoro notturno a settimana, cioè solo il sabato iniziamo alle 2 anziché alle 4. Ecco, rimanga con noi, ora sentiamo Patrizia da Bologna. Buongiorno Patrizia. Buongiorno Davide, io volevo dare questo tipo di testimonianza un po' fuori dalle righe. Io ho un ragazzino di 20 anni con la sindrome di Down che dalla nascita, praticamente avendo avuto un nonno fornaio, aveva il sogno di fare il fornaio. Noi inizialmente lo prendevamo un po' in giro, però lui ha fatto l'alberghiero e si è un po' specializzato nell'arte della panetteria, panificazione, diciamo, e adesso è da un anno e mezzo che fa una borsa lavoro presso un fornaio ed è la persona più felice del mondo. Quindi, bene, siamo contenti di questo, almeno una notizia così felice sicuramente di questo suo figlio. Grazie Patrizia. Bene, c'è un sms da Modena che conferma, diciamo, ciò che ha detto l'intervenuto di prima. A Modena, se uno mangia il pane il giorno dopo ci rimette la dentiera. Bene, battuta scherzosa. Sentiamo Paolo da Parma. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide. Per poter far sì che non si faccia il pane di notte, si può fare di giorno e vendere il giorno dopo, però bisogna lievitarlo 10 ore, 8 ore, 10 ore. Allora puoi fare il giorno prima e vendendolo il giorno dopo, che è fresco, anzi molto meglio come fanno oggi. Qui in Italia non si trova un pane buono, perché fanno lievitare dai 20 minuti a un'ora, un'ora e mezzo, e ci mettono degli eccipienti, degli additivi, che il pane diventa, dopo 6 ore diventa duro, è solo quello. Paolo, non bisogna fare di tutto un erbo un fascio. Comunque facciamo rispondere all'annunzio Nini Vaggi, se questo è possibile, se può ottenere un pane buono così. Dottor Paolini, lei lo conosce il mio pane? Certo, ma noi, per questo che ha chiamato lei. Noi abbiamo una lunga lievitazione, perché facciamo il pane solo con lievito madre. Facciamo. Quanto lo fa lievitare, Nunzio? Da noi lievita le prime 2 ore, sta. Poi c'è un'altra fase che lo pesiamo, poi lievita un'altra ora dopo. Poi si fa rilievitare di nuovo nelle assi di tavola e poi lo riprendiamo di nuovo. Quindi, e poi infornarlo dopo un'altra oretta circa, ci vogliono intorno alle 5 ore tutto, diciamo. Bene, grazie Nunzio, grazie, buon lavoro ad Altamura. Sentiamo Davide da Treviso. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ospiti. Vi chiamo perché vorrei permettermi una piccola osservazione e anche un piccolo suggerimento sulla base della mia esperienza come consumatore. Vedo che in linea di massima c'è uno scadimento della qualità nella produzione del pane, sia per quanto riguarda il pane che si può comprare presso i fornai, sia per quello che si può comprare presso i supermercati. Non di meno vedo dall'esempio di un negozio di forno che ho vicino a casa, che fa dei prodotti di qualità molto buona, che questo negozio alla fine della giornata, in linea di massima, i banchi dell'esposizione che sono vuoti, il che significa che chi produce e fa bene il suo lavoro riesce ad avere il suo mercato, quindi il suo tutto quello che ne consegue. Penso che questo, se venisse applicato anche dalla maggior parte dei negozi, consentirebbe al consumatore di avere un prodotto che non sia immangiabile dopo un giorno, consentirebbe di battere la concorrenza anche della grande distribuzione, perché per esempio questo negozio ha a pochi metri un supermercato che vende pane e che naturalmente rientra nella categoria del pane immangiabile dopo un po' di giorni, non giorni, ore. Forse così si innescherebbe anche un circolo virtuoso che consentirebbe anche di incrementare gli utili in un periodo di crisi, dare lavoro e consentire di mangiare cose buone. Grazie Davide da Treviso. Voglio leggere due sms. Riccardo da Roma: la manodopera è una risorsa, un valore e quindi come tale ha un costo. Provate a mangiare il pane fatto con le macchine, sentirete la differenza. E ancora: premetto che da sempre il pane lo mangio il giorno dopo, prova per il pane buono. Vorrei dire che il panificatore è comunque un lavoro notturno o seminotturno, come lo sono altri lavori. Dipende, quindi, se si ha passione, oltre che voglia, è anche bisogno. Bene, mi sembra che sia una conclusione, grazie a Paolo Bonaga, sia la conclusione di questa trasmissione, in cui vari sono stati gli interventi, vari sono le opinioni. Comunque io vorrei concludere dicendo che la qualità del pane in Italia bisognerebbe migliorarle. Come? È vero quello che ha detto questo signore da Treviso. Secondo me il problema è che diciamo che gli scaffali sono vuoti laddove si mangia il pane buono. Chi fa grandi rimanenze sicuramente deve farsi un po' anche un esame di coscienza. E poi penso ancora che anche il fornaio ha un lavoro di ricerca, non ci si può fermare e bisogna continuare a ricercare le farine, bisogna ricercare magari nuove soluzioni e anche vedere, come stanno vedendo a Matera, di eliminare parte del lavoro notturno per incidere meno sui costi. Bene, allora abbiamo chiuso, il vostro gastronauta vi ringrazia, vi dà appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Buona giornata da Davide Paolini. Il gastronauta.